fisiche, sottendono pudiche, linee guida povere, il vomere solleva la terra. La popolazione zarra mi sembra a volte così calma, mentre mi chiedono se sono salma o ancora palma. La gente parla di me come di un pirla, puoi darla in giro ma cosa vuoi che serva? Se incontri chi resista richiamo della giungla, tundra, il mio alito tenebra la folla, il mio discorso svoglia, veglia, funebre insieme come una volta, attollo di foglia sopra un mare di noia, e adesso spoglia il sistema come sa fare tu, non chiedo niente, incendio grigio sul grill, schiaccio stile alle feste, durante le vostre manifeste intenzioni di divertimento, poi di scaldarle dallo scheletro, dagli pensiero fino ad ogni sentimento, siete un'offesa al cervello, levo le tende mentre tu cerchi il bello d'oro, quando a 50 anni capisci che non ti serve il lavoro, non ricominci da zero, bensì ti torturi pensando com'ero, dove stava e con chi ero, il conquaglio di un pero, prelevo il tuo pensiero e penso che non è niente di nuovo mi parli dell'arte, di nuovo presunzione di sapere, di nuovo speri di portare la tua morale sul mondo, di nuovo mi dai dello scemo, di nuovo mi dici che ho torto marcio, non sono adeguato alla situazione, tu invece sì, tu sì che con la tua falsa erudizione arriverai altrove, forse a porte non è come trippi, pace amore come un hippie, stappi e sei contento, finalmente uno scemo arriva così discuti di un argomento sotto le scarpe, ignoro le linee guida come il pugno chiuso, non mi sento mio agio in nessun posto perché sono fuori luogo. Conseguenze rerum, io non dico redrum se non uccide una persona. Suona, suona, la si vuole, non adora la sera. Povertà catartica estrema, sistema i tuoi conti e poi fate una cena. Trema, la terra colpita, la parola blasfema, ma qualcosa scatena, l'ira perversa del nessuno, perché nessuno capisce, nessuno punta l'indice. Catalogo orribile, perché vengo posto sotto la sigla cose bizzarre, anomale, posizioni per voi comode, per me inaccettabili. Voi persone indeprecabili, superficiali, passate nei miei pensieri, vi considero come bicchieri d'acqua nelle profondità dei mari. Basta dire liriche, basta ripetere, non posso competere, sono abituato solo a perdere. Mi brucia la vittoria come brucia la sconfitta chi può soltanto vincere. È semplice, finora bastano le mimiche, mi esiste la realtà che ti circonda. Ma se per caso ti sfiorasse il dubbio, ma il perdere, il vincere sono condizioni identiche. Se non trovassi un cazzo di parete solida dove andare a sbattere, resteresti nel semplice, ti priveresti del piacere di scoprire e combattere il resto del mondo. Hai paura, paura del vuoto nel quale io nuoto e che padroneggio mio pseudo piacimento. Certo, adesso sei superiore perché ha aggrappato un metro quadro, in pratica forzatamente ricade il tuo interesse. Io invece analisi, io startman, ego fondente, non mi identifico con niente, porto sempre con me le mie essenze, senza rincorrere un temporaneo apparente. Senso di pace non prevalente, la pace è la morte, finché vivo in ogni luogo mi tocca stare fuori luogo, divengo e non mi spiego. Canto, canto, canto la canzone. Canto, canto, canto la canzone. Canto, canto, canto la canzone. Canto, canto, canto la canzone. Primo detesto, secondo rifletto, terzo ho il coraggio di tornare sui miei passi in qualsiasi momento. Sono uno stupido è uno stupido, io sono uno stupido, continuo, dovessi essere l'unico, mi guardi incredulo, ti sto simpatico ma forse esagero in amido, le mie certezze che se no si afflosciano appena sento nel tuo alito. Ultimo, resta scomodo, perfino in mezzo a quelli che lo tollerano, mancano persone che ascoltano, resto da solo fra le persone che di solito o non si divertono, oppure si divertono mentre gli altri si scazzano. Democrazia oligarchica dove ti castrano, ti prendono per il bavero, ti stringono senza che loro stessi lo sappiano, gli atleti corrono, o forse scappano, i tuoi proseliti li seguono e non si accorgono dell'ultimo, se non fino a quando non si contano e notano che alcuni soggetti mancano, mi cagano il cazzo, ho smesso da tempo di tentare di stare al loro passo, e adesso aspettano e sperano, oppure se ne vanno e mi lasciano. Torneranno presto, stanchi di correre, non capiranno certo che cosa non li ha fatti vincere. Volta il percorso circolare, per questo tocca trovare nuove strade, oppure girare vuoto sprecando tempo ed energia vitale. Posso correre con loro, posso stare nel poco, posso essere in Italia, comunque sempre fuori luogo. Canto, canto, canto la canzone. Ciao Paperino, volevo fare un gruppo musicale. Sai suonare qualcosa? Sei bravissimo. Stai lontano dal microfono, sennò si sente di merda.